Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 77, una serata ricca di novità del 2015 e giusto un paio di dischi appena appena un po' meno recenti, ma sono tutte novità discografiche molto stimolanti e interessanti. Cominciamo subito con Caroline Wonderland, una interessantissima voce che potremmo ascoltare attraverso la pubblicazione Live Texas Trio, e da questo CD noi ci potremo ascoltare At the Crossroad. Buon ascolto quindi con Caroline Wonderland. Oh, Questa era la voce di Caroline Wonderland dal CD Live Texas Trio, pubblicato proprio quest'anno, nel 2015, e noi ci siamo ascoltati At the Crossroads. Il CD mette in evidenza le grandi potenzialità di questa cantante, che come avete sentito è non solo ben intonata, non solo ha una capacità espressiva notevole, quindi partecipa alle sue interpretazioni interiormente, ma anche ed è una bella potenza proprio tecnica, una bella potenza vocale. In alcuni pezzi del CD questa potenza si esprime ancora meglio, con degli acuti incredibili. Questo era uno dei pezzi più tranquilli, che comunque svela le potenzialità di questa bravissima cantante, Caroline Wonderland. Adesso andiamo avanti con il gruppo di Blues Corp. Blues Corp ha realizzato proprio quest'anno un interessante CD intitolato It Is What It Is, e da questo CD noi ci potremo ascoltare una composizione originale intitolata Mother Heart. Buon ascolto con il gruppo di Blues Corp. fury of nature's ever-changing forces. Our planet's well-justified retaliation may have only just begun. Mother Earth, please have mercy, for we knew not what we'd done. Mother Earth, please forgive us, for we knew not what we'd done. Bene, questa era la musica del gruppo Blues Corp. Il CD in questione è stato pubblicato proprio quest'anno, intitolato It Is What It Is, e il pezzo che ci siamo ascoltati è una loro composizione originale intitolata Mother Heart, la nostra madre terra, della quale forse, anzi senza forse, decisamente bisognerebbe avere molto più rispetto. E Blues Corp è un gruppo, come avete sentito, piuttosto raffinato di blues, con dei momenti jazzy molto gradevoli, molto morbidi, e si esprimono veramente con compiutezza di linguaggio, belli gli assoli, senza essere quegli assoli così molto agguerriti, molto grintosi, rispetto sempre a questa connotazione di eleganza. Dopo Blues Corp è il momento di una nuova band che appunto si presenta per la prima volta in Blues Fires, che si chiama Bay Pole Band. La Bay Pole Band si presenta con questo nuovo CD, anche lei pubblicato nel 2015, Not Going Away, e da questo CD noi ci ascolteremo Right in Front of You. Questa è una composizione originale della band, Bay Pole Band. Buon ascolto. So long you've been my buddy, so long you've been my friend. It's my shoulders that you cry on, time and time again. We look into each other's eyes, so much is being said. Not a word is spoken, baby. It's like we're in each other's head. Your garden, your thoughts are your seeds. You can grow beautiful flowers there, or spend your time pulling weeds. Think about it, baby, you're the one that's all in your hands. We know something's going on, we both should understand. Every time love hurts you, baby, I'm always there to pull. Hey! one to listen. My ears are yours to bend. I lift you up when you let down. What message do that send? You say you want to find a man, baby, who treats you like I do. Wake up and smell the coffee. I'm right here in front of you. Every time love hurts you, baby, I'm always there to pull you through. Oh, yes, I am, little girl. Why don't you understand, baby? I'm the one who really loves you. Oh, yes, I am. I'm the one, baby. I'm always there to pull you through. Yeah, it's my shoulders that you cry on time and time again. Wake up and smell the coffee, baby. I'm right there. I'm there for you. Oh, yes, I am, baby. Bene, ci siamo ascoltati anche la Bay Paul Band. Come avete sentito, una band con un leader, Bay Paul ha la voce molto valido, molto bravo, con una bella grinta R&B. Si sente questa venatura R&B in tutto il pezzo e in tutto il CD, quindi un blues venato di caldo, anche con la presenza di questi fiati tipici delle band di R&B. Un CD questo intitolato Not Going Away, molto bello, interessante, come dicevo prima, caldo, con queste armonie che ci portano nelle atmosfere del rhythm blues e che mettono in evidenza non solo la bravura, come dicevo prima, canora del leader, ma anche le validità della band con dei belli assoli strumentali. Il pezzo che ci siamo ascoltati era una composizione originale intitolata Right in Front of You. E adesso ancora una pubblicazione fresca fresca, ce la propone Big Mike and the Booty Papas, che hanno realizzato questo Risky Business, dal quale noi ci potremo ascoltare I'll Take Care of You, una composizione originale. Buon ascolto con Big Mike and the Booty Papas. Come here, girl. I got something I want to tell you. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way that you carry yourself. But if you let me, woman, here's what I'll do. I'll take care of you. You know I've love and lost the same as you. So you see, woman, I know just what you're going through. Yes, I do, baby. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. You don't ever, ever have to worry. Well, sweet mama, you won't ever have to cry. you'll be true. Then you know I won't, I know just what I'm gonna do. And just as sure as what he wanted me to. I'll take care. Questa era la musica di Big Mike and the Booty Papas, il CD pubblicato quest'anno intitolato Risky Business, e noi ci siamo ascoltati una composizione originale del gruppo intitolata I'll Take Care of You. Si tratta di una band, come avete sentito, molto ben assortita. Ci sono stati in questo pezzo dei bellissimi dialoghi solistici tra la chitarra e il sax ed altri strumenti, veramente una bella performance, ottimo il leader alla voce, una band complice, compatta, che riesce a offrire bei momenti musicali in ogni parte del CD. Ricordo il titolo del disco, Risky Business, pubblicato quest'anno. Il gruppo è Big Mike and the Booty Papas. E adesso BB Lynx Blues Band, altra new entry nei nostri programmi. Anche loro hanno una pubblicazione discografica freschissima, anche questa del 2015, intitolata Blues Pabia Recept, dal quale noi ci potremo ascoltare Forbidden Love. Buon ascolto quindi con BB Lynx Blues Band. it was. Forbidden love. Forbidden love was all it was. Lying and cheating all the time. Just about to go out of my mind. Forbidden love. Every day I feel the pain. Forbidden love. Every day I feel the pain. Lying and cheating all the time. Just about to go out of my mind. Forbidden love. I love you, baby, that's a fact. Forbidden love. I love you, baby, that's a fact. Lying and cheating all the time. Just about to go out of my mind. Bene, ci siamo ascoltati B.B. Lang's Blues Band con questa Forbidden Love tratta dal CD Blues Pabia Recept pubblicato proprio quest'anno. Avete sentito un bellissimo assolo di chitarra che impreziosisce il pezzo, un artista valido come cantante ma soprattutto molto preparato con la chitarra, riesce a offrire delle performance solistiche veramente di buon livello, offrendo momenti di grande tensione. Bene, dopo B.B. Lang's Blues Band è il momento di Charlie Crockett. Nel 2015, quest'anno, ha pubblicato un nuovo CD intitolato A Stolen Jewel e da questo CD noi ci ascolteremo proprio questa sua composizione originale che dà il titolo all'album, A Stolen Jewel. Buon ascolto quindi con Charlie Crockett e la sua band. White man is trading land and gems, going down that river again. He's going down. White man is taking everything he can, though he doesn't know it ain't. He's going down. He's going down, down, down, down, down. He's going down that lonesome river again. He's going down, down, down, down, down. Down that river again. White man, he got himself a disease, taking everything he please. Yeah, he's going down. White man, he got himself no friends, he'll use it to the end. Yeah, he's going down. He's going down, down, down, down, down. He's going down that lonesome river again. He's going down, down, down. down that river that never ends. Questa era la musica di Charlie Crockett, un cantautore, un cantante di blues folk che cerca una sua strada attraverso interpretazioni che in ogni caso si riagganciano alla grande tradizione, soprattutto di quel blues povero, di quel blues asciutto dei primissimi anni. E questo CD è tutto un live che, come dire, rimanda a certe atmosfere, facilita gli intenti culturali, gli intenti musicali di questo musicista. Charlie Crockett dal CD A Stolen Jewel. E adesso parliamo di Charlie Wheeler, un artista interessante che ho scoperto da poco. Quest'anno ha realizzato un CD intitolato Rewind. Io vi faccio ascoltare proprio il pezzo, una composizione originale che dà il titolo a questo album. Rewind, Charlie Wheeler. Buon ascolto. I knew it all along now, baby. I could never make you change your mind. Two rights don't make a wrong now, baby. For now I'm gonna keep on trying. I can't stand all the waiting, baby. Why you decide whether love matters anyway? I can't stand all the hating, baby. Why you decide whether you're gonna let him take you away from me? All the better days, back to the rolling hills of the one who loved you, baby. Rewind. I get down on my knees and pray, pray that you don't forget about the one who loves you, baby. Now we can spend some time now, baby. Try to help you learn your right from wrong. Ain't no reason to your rhyme now, baby. And I'm barely hanging on. Don't make a man flee now, baby. That just ain't the way a man should be. Cause a woman's place is in the home now, baby. Lying right in these loving arms right next to me, yeah. Rewind. Back to all the better days, back to the rolling hills of the one who loves you, baby. Rewind. I get down on my knees and pray, pray that you don't forget about the one. Forget about the one who loves you, baby. Time. time now, baby. It's coming clear every day. I was hoping you was gonna change your mind now, baby. E questa era una ballad di Charlie Wheeler. Charlie Wheeler, cantautore, che ha pubblicato nel 2015 questo CD intitolato Rewind, dal quale ci siamo ascoltati proprio il pezzo che porta il titolo dell'album, Rewind, una sua composizione, così come altre che mettono in evidenza la cadenza tipica del cantautore blues folk, che a volte lo devo dire, devo un po' esprimere il mio pensiero, così come il cantante che abbiamo ascoltato prima, Charlie Crockett, forse cascano un po' nella ripetitività, e quindi io aspetto sempre l'assolo di chitarra che solitamente mi fa volare un po' di più, mi porta un pochino più in alto, più fuori da certe consuetudini musicali, da certi accordi che ti aspetti già che ti portino un qualcosa che in realtà poi puntualmente avviene. Io ho bisogno di imprevedibilità, venendo dal jazz, che è musica compiutamente vissuta di improvvisazione con appunto grandi imprevedibilità. Spesso in questi contesti mi sento un po' ristretto, un po' chiuso, insomma, e quindi mi farebbe piacere sempre che anche in ambito cantautoriale ci fosse un'apertura maggiore, non certi concetti musicali che portano sempre a una ripetitività che non offre granché di positivo al concetto musicale. Andiamo avanti dopo Charlie Wheeler e dopo il suo CD Rewind con Chris Isaak, questo musicista che ripercorre un po' la musica anche rock and roll degli anni 50, la ripropone in questi anni, ripropone certe atmosfere vintage, sempre con grande capacità, con grande proprietà di linguaggio, anche con grande successo popolare, perché molte delle sue canzoni sono ascoltate in tutto il mondo e con grande successo. Chris Isaak lo potremo ascoltare in un CD pubblicato nel 2011 intitolato Beyond the Sun, dal quale noi ci potremo ascoltare Dixie Fried. Buon ascolto quindi con Chris Isaak. Town was a little hot spot. Dan dropped in around 5 o'clock. Took off his coat, set the night short. He reached in his pocket and he flashed a Cody calling, Ray Vaughan, chillin', I'm with you. Ray Vaughan, can't he cry? It's almost done, cops is gone. Let's all get Dixie fried. Dan got happy and he started raving. Jerked out a razor, but he wasn't shaving. And all those cats knew to jump and hop. He was born and raised in a butcher shop. He hollering, Ray Vaughan, chillin', I'm with you. Ray Vaughan, catch the crack. It's almost done, cops is gone. Let's all get Dixie fried. fry, fry, yeah! The cops heard Dan when he started to shout. They all ran in to see what he was about. And I heard him hollering as he led him away. He turned his head and this is what he had to say. Hollering, rip on, children, I'm with you. Rip on, cats, he cried. It's almost dawn, cops is gone. Let's all get Dixie fried, fried, fried. Got it! I'm in hell for hollering. Rip on, children, I'm with you. Rip on, cats, he cried. It's almost dawn, cops ain't gone. I've been Dixie fried. Bene, questa era la tipica musica di Chris Isaak che, come dicevo prima, ripercorre le atmosfere del rockabilly, appunto del rock and roll degli anni 50. Molti sono i suoi pezzi cantati anche dal grande Elvis Presley o da altri musicisti che sono stati mitici in quegli anni, grandi successi che lui rivive, fa rivivere con grande, dicevo prima, proprietà di linguaggio, sa come esprimere al meglio per riportare l'ascoltatore in certe atmosfere e quindi il piacere di rivivere quei momenti musicali che appunto Chris Isaak riesce a fare molto bene, sia dal punto di vista vocale sia dal punto di vista strumentale degli arrangiamenti. Dixie Fried era il pezzo che ci siamo ascoltati, tratte dal CD Beyond the Sun pubblicato nel 2011. E adesso ascoltiamoci un gruppo veramente molto valido con una grande cantante. Si chiamano Delta Deep, il CD in questione pubblicato proprio quest'anno porta il nome semplicemente della band, quindi Delta Deep, e il pezzo che ci ascolteremo stasera è intitolato Burn Sally. Buon ascolto quindi con i Delta Deep. Around all day and smokes the blues. Hey, Burn Sally sits around all day and smokes the blues. life is filled with misery. Misery and pain. Can't tell that gal's flowing tears. Bene, questa era la musica dei Delta Deep, come vi ho detto prima, un gruppo molto interessante che mi è piaciuto moltissimo, completo, perché ha una band ricca di musicisti capaci di performance solistiche veramente di grande energia e di grande bellezza. Sono capaci di offrire una grande compattezza di gruppo, quindi c'è una bella complicità d'ensemble, e nello stesso tempo hanno delle voci, perché questa non è l'unica voce, questa è la voce femminile del gruppo, poi hanno anche una voce maschile, tutte e due molto interessanti. Direi che forse questa è ancora quella più incisiva, più forte, più esplosiva, ma anche la voce maschile non è niente male, con degli accenti all'interno di questo CD che si chiama come il gruppo Delta Deep, che vanno in un blues rock molto forte, decisamente rock, con della potenza espressiva notevolissima. Il pezzo che ci siamo ascoltati stasera era intitolato Burnt Sally, appunto dal CD Delta Deep, pubblicato nel 2015. E questo era l'ultimo disco della serata, ma prima di chiudere una sorta di appello che ormai da tempo sto ripetendo, è quello diretto alle band, ai bluesmen italiani, e bluesmen e bluesgirl sicuramente anche al femminile. Il mio programma è molto interessato al blues italiano. Poche sono le occasioni discografiche per poter accedere alle produzioni italiane, per cui faccio un appello a tutti i gruppi blues che sono interessati ad essere promossi in Blues Fires di poter inviare le loro pubblicazioni discografiche. L'indirizzo verrà dato attraverso il primo contatto mail. Le mail potete trovare, i contatti li potete trovare sia su Facebook attraverso il gruppo dei miei tre programmi, poi attraverso la pagina sempre dei miei tre programmi, Anima Jazz, Blues Fires e il Dubidubidù, e poi c'è il sito ufficiale, che è il sito di Anima Jazz, www.animajazz.eu. Lì trovate la mail, trovate i contatti, quindi sicuramente sarà facilmente possibile poi creare le opportunità di invio o di CD elettronici o di CD fisici per la promozione in Blues Fires. Detto questo, passiamo ai saluti. L'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.